dal sogno credo che dobbiamo passare all'obiettivo. L'obiettivo deve essere la Champions League, deve essere lo scudetto, deve essere la Coppa Italia. Noi quest'anno dobbiamo veramente porci l'obiettivo di vincere tutto. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pensavo, dopo la sconfitta con l'Ajax, di andare avanti con Max, era un pensiero assolutamente sincero, e dopodiché sono seguite una serie di riflessioni che dimostrano la capacità. Se uno si accontenta di uscire dal campo e dire giochiamo bene, però abbiamo perso, magari siamo arrivati secondi, questo non è roba che fa per me. Ci può spiegare quali sono i principi del sarrismo? Me li dovresti spiegare voi, perché in termini avete inventato voi della stampa. Seguir así, confiante, seguir pensando que esta filosofía de juego es la mejor y tenemos que estar, que jugar así, que jugar así. È il gol della vittoria. Time to think big. L'obiettivo dell'aumento di capitale del 2019 è lo sviluppo futuro della società. Vi chiederemo quindi di approvare il bilancio il 30 giugno 2019, ma anche la fiducia a questo gruppo dirigente per raggiungere assieme nuovi grandi traguardi. Amici convocati, buon pomeriggio. Presidente della Juventus Andrea Agnelli, buon pomeriggio e grazie. Buongiorno a tutti voi, è un piacere essere qua. Grazie per aver accettato la convocazione su questo palcoscenico, ma ancora di più per la premessa, perché che è stata, chiedetemi quello che volete, risponderò a tutto, spero che non se ne pentirà, anche perché abbiamo convocato gli stati generali. Giovanni Capuano, ciao. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Pierluigi Pardo. Ciao a tutti. Marco Beninazzo, ecco, da Sole, ciao, 24 ore. E voi che potrete intervenire, WhatsApp vocali 349-238-6666, abbiamo chiesto anche altri WhatsApp vocali, poi ve li faccio sentire, ma parto con la cronaca stretta, Presidente. Si sta decidendo in queste ore, ma Juventus-Inter potrebbe giocarsi a porte chiuse, in una situazione i cui sviluppi sono difficilmente immaginabili. Credo che in questo momento quella che deve essere la priorità per il sistema paese di cui lo sport fa parte sia la tutela della salute pubblica. Quindi, partendo da questo presupposto, è evidente che c'è un dialogo con i vari portatori di interesse, ma quello che deve prevalere e cui noi appoggeremo sempre è qualsiasi determinazione che venga assunta nell'interesse della tutela della salute pubblica. Il dibattito è porta chiusa o interruzione, sospensione di tutto il sistema? Il dibattito può essere aperto. L'interruzione del sistema sportivo è difficile, abbiamo un calendario, è un calendario che è estremamente intasato, figlio anche di decisioni che sono prese precedentemente, quindi iniziare il campionato tardi, non giocare durante la sosta natalizia fa sì che se si sgarra per qualsiasi motivo recuperare una partita diventa estremamente complicato. Nel caso specifico però, ripeto, deve prevalere l'interesse della salute pubblica, e se così disporranno gli enti preposti, questo noi faremo. La Juve è una squadra molto amata anche in altre parti del paese, ha una, diciamo, diffusione di tifosi su scala nazionale molto larga e molto vasta. Idee alternative, tipo andare a giocare questa partita al sud, ammesso che si possa, ammesso che ci siano le condizioni logistiche, possono essere messe in piedi da qui a domenica per evitare di giocare il big match scudetto in uno stadio vuoto? Ripeto, organizzare una partita come Juventus-Inter in uno stadio diverso da quello che si è ipotizzato è estremamente complicato. In quest'ottica, ancorché dispiace, ma dispiace per lo spettacolo in sé, perché per lo spettacolo televisivo senza spettatori sugli spalti ne risente la distribuzione del prodotto italiano, ne risente il campionato italiano per quella che è una sfida non di quest'anno, ma una sfida della storia del calcio italiano. Però gli addetti ai lavori, noi tutti, dobbiamo avere in mente quella che è la priorità generale del sistema e, ripeto una volta di più, la tutela della salute pubblica. Quindi non è un tabù parlare di Juventus-Inter a porte chiuse, cosa che dà fastidio a tanti tifosi che in queste ore hanno scritto chiedendo che non accadesse, che ci potesse essere un invio. La prima notizia è che non è un tabù immaginare domenica prossima ore 20:45 la sfida scudetto Juve-Inter a porte chiuse, che significherebbe far saltare il rientro di Conte davanti ai propri ex tifosi, che era uno dei grandi temi. Tante cose sicuramente negative dal punto di vista proprio, credo, anche simbolico della normalità, certo, della vita, della passione del calcio, anche dal punto di vista pratico. Insomma, la squadra di casa sicuramente preferisce giocare con i propri tifosi, credo, Presidente, su questo non ci siano dubbi, anche dal punto di vista proprio strettamente di interesse logico, però insomma mi sembra di grande buonsenso questa posizione. Anche perché Giovanni Capuano l'altro giorno ha detto giustamente: siamo all'inizio della stagione, questa settimana l'inizio della vera stagione sportiva della Juventus. Mi sembra una definizione corretta, no? È assolutamente corretto, fermo restando, giusto per chiarezza, che l'ordinanza in Piemonte vige fino a sabato in questo momento la partita si svolge regolarmente all'Allianz Stadium con il pubblico, quindi questa è la constatazione dalla quale partiamo. Quello che ribadisco l'ultima volta, ma questo è quello che è la posizione della società, tutela della salute pubblica, quindi valutiamo l'evolversi della situazione e laddove ci fosse imposto di giocare a porte chiuse, sappiamo che questa nell'interesse generale è la scelta giusta. È altrettanto vero che poi con questa partita, o forse più probabilmente con la partita di mercoledì sera, quindi con l'andata degli ottavi di Champions contro Lione, questo è il momento in cui parte la stagione, dove si entra nel vivo, e chi compete per vincere incomincia adesso quella parte della stagione che è fondamentale. E quindi il voto del primo quadrimestre della Juve cos'è? Visto che inizia il secondo semestre. Ottimo, devo dire. Siamo primi in classifica in campionato, siamo negli ottavi di Champions, siamo in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo avuto una piccola sbavatura con la Supercoppa Italiana, se vogliamo, ma tutto sommato, quando uno valuta una stagione, non valuta una partita, anche se ogni tanto una partita può fare la differenza. Si aspettava di più dall'ultimo mese e mezzo, nel senso che la Juve si è testata la classifica, è indiscutibile, ha avuto grande autorità nel girone di Champions League, questo è indiscutibile, l'ha vinto veramente con la sigaretta in bocca, però nell'ultimo mese e mezzo sicuramente aveva la possibilità di allungare e non è successo. È mia abitudine valutare una stagione, quindi quando io valuto alla fine, certo, ed è quello che rileva, e non posso constatare i vari passaggi durante la stagione. Pensare di voler vincere tutti gli anni a febbraio è sciocco, gli scudetti normalmente si vincono a maggio, ed arrivare in questa fase della stagione primi in classifica è un buon punto di partenza. Il modo è convincente, cioè i risultati sono quelli, le modalità sono quelle, sono in linea con le aspettative? Le modalità sono in linea con le aspettative, siamo un punto sopra gli altri, quindi sì, sono che cos'è il sarrismo? Che cos'è il sarrismo? Lei ha fatto questa scelta l'anno scorso da Allegri a Sarri, immagino che con Allegri abbia comunque un rapporto di grande amicizia personale, grande stima, no? Ma assolutamente, voglio dire, l'ultima volta ci siamo visti la settimana scorsa per un caffè, quindi da questo punto di vista l'amicizia, la stima è rimasta intatta, ed è giusto che sia così, perché poi sono persone con le quali si lavora, si condividono anni interi, con Max sono stati 5, e quindi che rimanga quel senso di stima e di amicizia è normale. Le valutazioni, come ho detto, sono state diverse e che hanno portato a fare una scelta di un cambio della guida tecnica, ed abbiamo collegialmente, come accade in Juventus, ci sono delle persone che hanno responsabilità precise, di individuare nella guida tecnica della Juventus un tecnico che ha le caratteristiche come quelle di Sarri. Sarri ha dichiarato nella sua conferenza stampa, quando è stato presentato a inizio agosto, io voglio avere un impatto fino a 70 metri, dopodiché sono gli interpreti. Quindi quello che io trovo fuori luogo sono semmai le critiche che abbiamo oggi, perché se prendiamo le parole di Sarri di inizio agosto, dice esattamente quello. Allora, io vi faccio sentire, abbiamo chiesto ai direttori dei tre quotidiani, o vice direttore nel caso di Caro, dei tre quotidiani sportivi italiani, di mandarci una domanda, una WhatsApp. Curiosità. WhatsApp. Che siamo giovani qua. WhatsApp. E partiamo con il Corriere dello Sport e Ivan Zazzaroni. Allora, la mia domanda non è esattamente la mia domanda, è la domanda di Armando, il maître dell'albergo nel quale vivo a Roma, che è tifosissimo della Juventus, e chiede a oggi cosa ne pensa del cambio Sarri-Allegri, qual era la reale motivazione, l'origine di questo cambiamento naturalmente in estate, perché se ne sono raccontate tante. La seconda domanda è se ha mai pensato realmente di riprendere Conte. La prima domanda ho già risposto. Sì. Per evitare di perdere tempo nell'interesse della trasmissione. Armando, l'albergo in cui Armando lavora, sicuramente la prossima volta che sono a Roma passerò a trovarlo. Per quanto riguarda la scelta tecnica, ripeto, non è, cioè, mai pensato, noi pensiamo a chi vogliamo, non a chi non vogliamo. Noi volevamo Sarri e abbiamo preso Sarri. Ma qualcuno ha telefonato a Conte o no? Perché Conte se ne è scritto tanto in primavera. Ma che effetto le fa vederlo sulla banchina dell'Inter? Proprio perché avete passato gli anni insieme. Vi sentite ogni tanto? Sì, no, assolutamente, da quel punto di vista. Conte, bandiera juventina, capitano juventino, ha alzato la Champions con la Juve, ha vinto Scudetti. Conte è Juventus, da questo punto di vista. Non ho nessun timore di non pensare che Conte è Juventus da questo punto di vista, e quindi con Antonio il rapporto è cordiale, disteso, come deve essere. Poi è altresì vero che nel contesto in cui viviamo sono professionisti, la sfida che lui ha reputato più affascinante è quella di riportare l'Inter a vincere, è una sfida ambiziosa, è una sfida. Conosco molto bene Steve, lo stimo, è una sfida che ha la presidenza dell'Inter, e a me onestamente avere un testa a testa con Steve nell'ultima parte del campionato è qualcosa che affascina. Marco Bellinazzo ha avuto Sarri come allenatore da tifoso del Napoli per tanto tempo, come valuti la sua reincarnazione juventina? Beh, chiaramente ora mi metti su una giacca che mi porta a dire che mi stona sempre, chiaramente, perché sono abituato da tifoso, ero abituato a vedere un'altra cosa, ma evidentemente capisco nella scelta che ha fatto la Juventus l'accettazione e la volontà di intraprendere una sfida. In questo senso mi chiedo quanto oggi sia importante la cifra estetica del bel gioco rispetto per esempio alle prospettive commerciali di un club. Credo che anche questo non abbia inciso nella decisione, cioè l'identità del gioco può essere rivenduta agli sponsor banalmente, e se sì, quanto oggi pesa questo? Secondo me gli sponsor sono molto juventini, nel senso che quello che interessa lo sponsor è il risultato. Da questo punto di vista allegriani risultatisti, sono juventini. Io direi vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Quindi allo sponsor interessa avanzare nelle competizioni, allo sponsor interessa la visibilità, allo sponsor interessa quanto si parla e quanta è la visibilità che ha attraverso la sponsorizzazione, appunto, e non è attraverso il bel gioco ma è attraverso il risultato. Quindi nella scelta di Sarri, perché insomma, lo abbiamo detto tutti, lo abbiamo pensato, non c'era anche un'ambizione un po' estetica, dal punto visto che il calcio oggi è ovviamente anche comunicazione globale, cioè l'idea, l'ambizione di giocare un calcio che fosse percepito dal mondo come un calcio bello e non soltanto vincente? Ma questa è un'interpretazione che è stata data da molti. Nel nostro giudizio l'applicazione di un modello tecnico come quello di Sarri in una determinata fase della storia della Juventus era la modalità che avrebbe potuto garantire con maggiore probabilità il risultato finale. Okay. Quindi, avete mai pensato a Guardiola, presidente? Realisticamente? No, hanno pensato in molti, ma non pensare a Guardiola non so, diventerebbe un'eresia dire, certo, uno non pensa a Guardiola. Ma Guardiola in questa fase sua è molto felice dov'è, al di là anche delle situazioni contingenti, quindi uno evidentemente quando fa determinate valutazioni sa anche perfettamente in che momento sta vivendo un professionista che vorrebbe all'interno della sua società per ricoprire un determinato ruolo. Nel caso di un giocatore, di un allenatore è maggiormente visibile, ma lo stesso discorso si può fare per un direttore commerciale o un altro ruolo. Cioè, se io sono felice dove sono, difficilmente lascio per andare altrove. Se fosse libero la prossima estate, la tentazione non vi verrebbe? No, in questo momento siamo molto felici con Sarri e devo dire il grosso del dialogo, perché voi in senso lato vi divertite a speculare della cena che ho avuto con Sarri, che poi sono diciamo, appuntamenti che io ho. Chi abitualmente mangia di più fra Sarri e Allegri? Scusi, arrivo, arrivo e chiudo. Cioè, era proprio l'impostazione a 1, 2, 3 anni data. Quindi quello che a me fa molto piacere, se mi guardo indietro di questi ultimi 10 anni, sono due cicli che abbiamo aperto, uno appunto con Antonio e uno con Max. Cioè l'idea e la forza di un'idea sta proprio nella sua prosecuzione nel tempo, quindi la priorità numero uno è proprio questa. Mangiano uguali. Sarri per lungo tempo, mangiano uguale? Mangiano uguale. Prima di tutto ce la fa, complimenti. Non ci aspettavi, eh? Poi mangia come me. Maurizio mangia come me. Però sarà fatale che tutto dipenderà dai risultati. Anch'io sono molto risultatista, sono molto allegriano, cioè per me il massimo della poesia è il risultato sul tabellone. Per questo insomma i WhatsApp contrari si sprecano, però è fatale che in un club come la Juventus inizia la stagione adesso e poi si terrà le somme. Vorrei solo eliminare un principio: non è che chi vuol vincere è allegriano, chi vuol vincere è juventino. Togliamo il campo da questo dogma, cioè il dogma è juventino vincere. Due, statisticamente, ma qui ne faccio un discorso più ampio, abbiamo vinto 8 scudetti, siamo in corsa per vincere il 9, faremo di tutto per vincerlo, vorremmo vincere anche il 10, ma la statistica a un certo punto dice che non sarà sempre così e la bontà delle idee non può essere valutata dalla statistica. Presidente, lei piace vincere, lei Berinazzo, lei del Napoli, non si ricorda lei, più. Non mi ricordo per esempio domani con Barcellona sarebbe Mario sarebbe una bella sfida, ma credo che tra l'altro è vero che il presidente Agnelli, come dire, ha questo approccio chiaramente molto legato al risultato della tradizione juventina, però ha anche una visione ampia ed evidente che non è ipocrisia dire che i successi delle altre squadre del calcio italiano servono anche alla Juventus. È tutto, voglio dire, il fatto che oggi ci sia l'Inter, che domani magari non dimentichiamo torni in Milan, sì, ma insomma mi riferisco diciamo a situazioni magari di medio e lungo periodo. Serve questo contesto? Sono fondamentali. Cioè, c'è un bocca al lupo al Napoli per esempio per domani? Questo assolutamente serve. Più avanzano le squadre italiane, meglio è per il ranking europeo. Quindi da questo punto di vista serve tutto. Presidente, lei rifarebbe diffuso ovunque quel discorso estate 2018 a Villar Perosa, dicendo alla squadra da oggi non è più un sogno ma bisogna vincere tutto e prima di tutto la Champions? O magari l'ha anche rifatto nelle segrete stanze? Attenzione, è diverso da bisogna vincere a un obiettivo vincere. Bisogna è imperativo, e un obiettivo non è imperativo, ma è un obiettivo che ci si pone. Quello che deve essere un motivo di orgoglio per tutte le donne e gli uomini della Juventus è che noi siamo passati dall'iniziare la stagione nutrendo un sogno, l'abbiamo trasformato in obiettivo. Ma no, bisogna vincere, ancorché sia poi nel DNA nostro, è diverso da dire è diventato un obiettivo. Quindi io parto con un sogno o io parto con un obiettivo, sono due condizioni diverse. E quel momento lì certifica un cambio nello status della Juventus a livello europeo, a di cui si rifarei. Di cambi nello status, credo che l'operazione Ronaldo abbia significato, no? Proprio sul campo, prima ancora che dal punto di vista economico, la volontà della Juve di affermare, insomma, mi siedo al tavolo delle big, è stata un'operazione di cui magari discutiamo degli aspetti economici sempre molto interessanti, che però ha voluto dare questa cifra e lei ha detto tra un po' prenderemo un giovane Ronaldo, ci metteremo nelle condizioni di prendere il giovane Ronaldo. La Juve sta facendo questo tipo di... A questo proposito aggiungo un'altra considerazione attraverso una seconda domanda di Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Presidente Agnelli, un po' sorprendentemente sembra che adesso l'avversaria principale per lo scudetto della Juventus sia diventata la Lazio. Cosa teme maggiormente della squadra di Inzaghi e se secondo lei ha qualcosa in più rispetto all'Inter? Quello che uno deve temere della Lazio, secondo me, è la spensieratezza. Non hanno l'obbligo di vincere, appunto, per tornare a pochi minuti fa. E questa spensieratezza, se riescono a traghettare marzo-aprile, può essere un enorme vantaggio dal loro punto di vista. Ma la stessa spensieratezza può essere il principale nemico della Lazio, dove tre risultati negativi fanno sì che automaticamente... Si rimangano soddisfatti di una qualificazione in Champions, direi ormai pressoché certa. Rispetto all'Inter sono due squadre con due filosofie diverse, con due rose completamente diverse, difficilmente paragonabili. L'Inter questa spensieratezza non ce l'ha, anche perché con l'arrivo di Conte è l'Inter che si è caricata dell'obbligo di vincere. Inzaghi le piace? Domanda così generale. Io con Simone Filippo, sì, voglio dire. Simone Filippo li conosco da 30 anni, quindi da quando Filippo giocava da noi, come tutti sanno, voglio dire, a Grazzano Visconti, a 5 km da casa loro, c'è casa dei miei zii, e quindi avevamo fatto anche diverse serate. Si parla di qualche anno fa, esatto. Giovani, quindi sì, sì, mi piacciono, li conosco, voglio dire, da sempre. Due ragazzi per bene, Simone anche, e devo dire che in questa fase, voglio dire, con la Lazio, Simone ha fatto un grandissimo lavoro. Bisogna vedere come, se e quando reagirà all'obbligo di dover vincere, quantomeno, voglio dire, a scendere in campo con l'obiettivo. Cambia sempre qualcosa. Federico Ferri, direttore di Sky, ha una domanda. Presidente Agnelli, con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, ma direi anche dopo essersi assicurato un giocatore come De Ligt, che era l'obiettivo delle più grandi squadre d'Europa, la Juventus ha cambiato per scelta, e credo in modo irreversibile, la sua dimensione e il suo modello di business. La domanda è: quanto questo modello e dunque il successo dell'azienda Juventus è dipendente dai risultati, più o meno di prima? In altri termini, l'ansia da prestazione è più alta anche per questioni di conto economico? No, il modello della Juventus è sempre stato un modello di ambire a vincere, quindi, senza tornare troppo indietro nel tempo, ma passiamo dagli acquisti di Platini a Zidane, voglio dire, sono sempre stati acquisti che sicuramente hanno alzato quella che è la dimensione sportiva della Juventus. Una volta le ricadute economiche erano inferiori, ma non era inferiore l'attrattiva per un giocatore nel cercare un determinato club, se questo non gli dava la possibilità di arrivare all'obiettivo comune, che è la vittoria. Quindi c'è un'analogia. Oggi c'è anche un'implicazione maggiore, che è la dimensione economica, quindi il partecipare a determinate competizioni sposta di molto quelle che sono i livelli di fatturato di un club, e giocare a queste competizioni, mi riferisco a competizioni europee, la Champions League sopra l'Europa League sicuramente, porta ad un'esposizione globale diversa, e quindi alla possibilità di andare a monetizzare in via indiretta attraverso gli strumenti mediatici moderni. Ma quando tireremo una linea sull'operazione Ronaldo, il giorno in cui Ronaldo andrà via dalla Juventus, che cosa avrà pesato di più? Essere arrivati ad alzare la Coppa o magari 100 milioni di fatturato che lascia in eredità strutturali alla Juventus? E quando avremo le due condizioni le valuteremo, in questo momento non le abbiamo. Ma quando l'avete fatta, che cosa avete pensato di più? Perché di solito si fa una valutazione soprattutto sportiva. In questo caso è più difficile. L'ho già dichiarato, è stato il primo giocatore per il quale abbiamo fatto una riflessione congiunta tra area sport e area ricavi, come si chiama oggi, area revenue, e abbiamo visto che le condizioni coincidevano. Portava un valore aggiunto in campo, voglio dire, lo dimostrano i dati fin qua, ed effettivamente ha spostato la riconoscibilità del brand Juventus a livello globale. Oggi la Juventus è un passo dall'essere il quarto club per numero di follower sulle varie piattaforme digitali, lo è per l'attività, lo è per livello di engagement, e ha portato dei benefici straordinari a livello di riconoscibilità del valore da parte degli sponsor. E sa che c'è Messi con quella clausola, non so se... Me l'hanno detto, sì. Ma via gratis. Ma lì c'è un problema di troppi bonus fiscali che rendono troppo complicata l'operazione. Subito Begliazzi fiscalizza, subito che blocca tutto. Ma lascia che lo smentisca lui, perché devi smentire. Io volevo chiedere al presidente se è un sogno. Perché De Laurentiis l'ha chiamato e ha detto perché stiamo cercando di portarlo. Domani va a Napoli. Domani. Se ci dovessero essere le condizioni, un tipo di ragionamento che si può pensare a fare, ed eventualmente se un'altra squadra italiana prendesse Messi, sarebbe uno stimolo, sarebbe un problema? No, deve essere uno stimolo. Io guardo, voglio dire, scomponiamo quello che è un elemento di rispetto di tutte le società e diamo una valutazione commerciale d'impatto del campionato italiano. Le prime 5 società sono Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli. Se tutte queste società avessero un campione del calibro di Ronaldo Messi, sarebbe un beneficio di spettacolo per il campionato italiano in primis e indirettamente per il riposizionamento del campionato italiano all'estero. Il nostro problema non è l'Italia, ovvero in Italia abbiamo altri problemi, ma non è la passione, non è la presenza negli stadi, non sono gli investimenti dei broadcaster sul calcio italiano. Il nostro problema è l'estero, sul fatto che all'estero, e voi siete gente che viaggiate, se provate a vedere una partita di Serie A sì, una via crucis, sì, senza destinazione. Marco Bellinazzo, la semestrale cosa dice? Che, no, invece di chiederlo a lui, ormai lo chiedo direttamente a te. No, vabbè, cosa dice? Cosa dice la semestrale? Bravi di me. Può la Juventus permettersi Messi l'anno prossimo? Beh, io non è che posso dire addirittura questo. No, diciamo questo, che è evidente che nel momento in cui fai un'operazione importante, quella di Ronaldo, più tutte le operazioni fatte nella scorsa estate, comunque metti un po' il conto economico sotto pressione, nel senso che i costi, in particolare quelli della rosa, crescono immediatamente, quelli sui ricavi evidentemente hanno bisogno di più tempo. Anche se la Juve, per esempio, ha visto crescere in poco tempo tutte le sponsorizzazioni principali, da Allianz fatturato a Adidas. Quant'è il fatturato adesso? Beh, dobbiamo discutere di fatto. Prima abbiamo discusso, prima di entrare, di quanto si possa parlare di fatturato strutturale, considerando le plusvalenze. A mio avviso, ormai le plusvalenze devono entrare a far parte del fatturato strutturale. Diciamo che la Juve ha il costo della rosa, che considero, guardando sia gli ingaggi che gli ammortamenti dei cartellini, che ha superato i 500 milioni. È un fatturato strutturale che si sta avviando ai 500 milioni senza le plusvalenze. Quindi, grazie alle plusvalenze, si può riuscire, diciamo, a coprire gli altri costi ed essere in linea di galleggiamento. Più o meno questa è la situazione della Juventus. Ovviamente l'obiettivo è questo, in questo chiedo al presidente, in quanto tempo si riuscirà a portare il fatturato strutturale a livelli per cui la Juve potrà permettersi senza plusvalenza all'equilibrio, e in quanto tempo si riuscirà a colmare il gap con quelle 7-8 squadre che in questo momento viaggiano, diciamo, a 70 da 70-80 milioni in su di fatturato rispetto alla Juventus, considerando che sono le due spagnole che viaggiano verso il miliardo, comunque tra 700 e 800, e poi ci sono le inglesi, il Bayern, il Paris Saint-Germain, che fanno un po' da squadre che sono riuscite, diciamo, a superare abbondantemente da tempo i 500 milioni di fatturato strutturale. La Juve ci arriverà. Quando? Il tema è quando, e soprattutto se ci arriverà senza passare, diciamo, a un livello di organizzazione europea superiore rispetto all'attuale Champions. Così iniziamo, come dire, a viaggiare su due temi molto sentiti. No, il percorso di crescita fuori dal campo della società è un percorso che soddisfa ampiamente quella che è stata la storia recente. Il tema, e questo l'ho detto anche molto chiaramente nel corso dell'ultima assemblea, cioè la differenza, il delta che c'è oggi tra noi e i club che hai citato poco fa è lo stesso che c'era 10 anni fa. Quindi quel delta di 200-300 milioni lo troviamo, voglio dire, quando noi facevamo 200, quando io sono diventato presidente della Juventus, poco meno, loro erano a 450-500. Oggi noi siamo a 500, spannometricamente, loro sono a 750-800. Quindi c'è stata una crescita omogenea per chi ha avuto un'ambizione internazionale. Un elemento che noi scontiamo è la parte del riconoscimento da parte della Lega Domestica, questo senza ombra di dubbio. Quindi l'anno prima che io assumo la presidenza la Juve ricava 128 milioni di diritti televisivi, oggi siamo a 95 e siamo a 90 milioni flat da 7 anni a questa parte. Quindi il riconoscimento delle prestazioni fuori, dentro e fuori dal campo da parte della Juventus è stata riconosciuta con una crescita zero negli ultimi 7-8 Ma questo 7, è un processo anni. Corretto o no? Perché lì si è investito nell'idea che tutto il sistema potesse crescere, traducendo dividendo e vendendo i diritti televisivi in maniera centralizzata, dividendoli più o meno si dovrebbero fare delle riflessioni su che cosa significa la parte meritocratica. Adesso non siamo qui oggi per fare polemica, però voglio dire, la Juventus in questi 10 anni investe fuori dal campo circa 450 milioni, se pensiamo allo stadio, pensiamo al J-Village, quindi la nuova sede, il nuovo centro tecnico, l'albergo, il concept store e la scuola internazionale, pensiamo a tutto quello che è stato reinvestito su Vinovo e gli investimenti di amiglioramento che sono stati immessi nello stadium per tenerlo allo stato dell'arte. Quindi sono 450 milioni che sono stati investiti fuori dal campo. Allora, se guardiamo, voglio dire, andare in una direzione che sia analoga a quella delle altre leghe come meccanismo di distribuzione, va benissimo. Quindi 50% in parti uguali, di modo che ci allineiamo a dei sistemi delle principali leghe. Quello che fa la differenza è il meritocratico. Se poi il meritocratico diventa le presenze agli stadi, quando noi abbiamo uno stadio da 41.000 persone e gli altri fanno entrare la gente a 0 euro solo per fare fatturato da diritti televisivi, manca il meccanismo premiante. Ma col senno di poi avrebbe voluto uno stadio di 20.000 posti in più? No, no, la dimensione nostra è quella. Non dobbiamo pensare alle partite con l'Inter di domenica o alle grandi sfide internazionali, noi dobbiamo pensare che l'interesse è avere uno stadio sempre pieno, e se guardi in questi 10 anni la saturazione è stata del 95-96%, non 100%, perché lo spicchio del settore ospite è destinato per, fino a quest'anno era destinato al 5% alla squadra ospite, e spesso ci troviamo con 120 persone, 130 persone. Quest'anno si è messa una misura meno restrittiva, che è un numero congruo, tant'è che il secondo anello da quest'anno lo occupiamo con i nostri tifosi. Bene, allora ci fermiamo un attimo, intanto controlliamo le ultime ore che stanno già uscendo sulle varie televisioni e tutto a posto, non possiamo andare avanti un'altra mezz'oretta, non è pentito per il momento? Io ho 2 ore. Fantastico, ci sentiamo. Allora, Italia subito, poi facciamo Mangia come parli. Borsa rapida e poi torniamo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Vorrei chiedere una cosa al presidente Agnelli, se non pensa che si poteva fare qualcosa di più e meglio nella campagna acquisti, di conseguenza a quella delle cessioni. Io parlo soprattutto del centrocampo e soprattutto comprare un grandissimo esterno, se si poteva fare meglio. Grazie. Buon pomeriggio a tutti amici di tutti i convocati e soprattutto al grande presidente Andrea. Volevo chiedere se a giugno possiamo aspettarci un altro colpo alla De Ligt, quindi un altro top player. Grazie, saluti da Marco dalla provincia di Vercelli. Presidente, una curiosità, è vero che Marotta era contrario all'acquisto di Cristiano Ronaldo? Grazie. Anche i nostri ascoltatori, presidente Agnelli. WhatsApp 349-238-6666. Ma questa è evidente che una delle parti che più fa sognare il tifoso, al di là, voglio dire, della partita in sé, è tutto quello che è il mercato, l'arrivo dei giocatori, si sarebbe potuto, si sarebbe voluto. Questa è come mia prassi. È una domanda da porre poi a chi di dovere, nel senso che se uno è un responsabile dell'area sportiva, il mio obiettivo è quello di dare loro degli obiettivi sul campo e la messa a disposizione di un budget che io ho sempre chiamato capacità di fuoco, che è la somma tra la retribuzione del personale tesserato e gli ammortamenti, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Dopodiché, se sia un esterno di centrocampo, un centravanti, un grande terzino, un centrale alla De Ligt, un portiere, è una decisione che spetta a loro, perché in ultima analisi, se no, diventa è il presidente che ha voluto. Io faccio parte evidentemente di questo consesso, ma così come c'è l'attribuzione di una delega, c'è anche l'attribuzione di una responsabilità nell'esercizio della delega, e questa è oggi nelle mani di Paratici. La cosa di Barotta, sa che è un po' credo sia una leggenda metropolitana. No, il ragionamento non è corretto. Cioè, di nuovo, in quel momento Marotta faceva parte del gruppo dirigente e la decisione è stata presa congiuntamente. Ne abbiamo parlato nei minuti precedenti alla trasmissione. Con Cristiano si sono trovate 2 anime della società e la valutazione è stata quella evidentemente di proseguire. Chi rappresentava in quel momento le 2 anime della società ha rappresentato la decisione di proseguire. Presidente, Paratici è sotto esame, perché in tanti legano la scelta di passare da Allegri a Sarri anche per quello che lei aveva detto e che abbiamo sentito anche prima nella copertina. Cioè, io ero convinto dopo l'Ajax di andare avanti con Allegri, mi hanno fatto cambiare idea all'interno di una dialettica che si crea nel club per arrivare alla decisione. In tanti legano questa cosa a una sorta di scelta di Paratici come primogenitura dell'idea di passare da Allegri a Sarri. Paratici è sotto esame in questa stagione in maniera particolare? No. Paratici è un grandissimo dirigente, lo ha dimostrato negli anni scorsi, lo sta dimostrando tuttora. e quindi da questo punto di vista, dal mio punto di vista, non è sotto esame. Paratici ha una differenza rispetto al passato, che oggi è sotto i riflettori, prima non lo era, e quindi ogni qualvolta si ipotizza o si specula o si immagina quello che è l'esercizio del sogno del tifoso, quindi meglio uno, meglio l'altro, meglio questo, mercato in entrata, mercato in uscita, è il responsabile che ne finisce evidentemente sotto esame. Ma uno deve anche valutare quello che è il percorso di un dirigente come Fabio, e non è assolutamente sotto esame. Abbiamo incominciato un percorso ormai nell'ottobre del 2018, questo ciclo, primo ciclo, ma per scadenze naturali è il 2021, ma questo perché i contratti degli sportivi sono triennali, i consigli di amministrazione della società sono triennali, quindi si parla di cicli, ma non perché c'è una data di scadenza come lo yogurt sugli scaffali del supermercato. Lukaku resta, perché per qualche ora era stato accostato alla Juve, è stato alla fine uno dei colpi di mercato più importanti di quest'anno della concorrenza. Anche Icardi. Sì, vabbè, io volevo sapere intanto di Lukaku. Ma io, se apro i giornali, per fortuna ci accostano quasi tutti i migliori giocatori del mondo, il che vuol dire la Juventus è una destinazione ambita da questo tipo di giocatori. Dopodiché ne scegliamo la parte sportiva in primis, Paratici ne sceglie 25 circa adesso senza, e quelli sono quelli della stagione. Ma se guardo le speculazioni durante tutto l'anno, noi dovremmo acquistare 50-60 giocatori all'anno. Beh, anche Haaland era stato accostato alla Juventus. A vederlo segnare così c'è un po' di rimpianto di non averlo scelto, se poi è andata in questa maniera. Ma no, ma ripeto, noi guardiamo quelli che abbiamo, Haaland, Lukaku, tutti, sono tutti accostati alla Juventus, quindi questo è motivo di orgoglio. Evidentemente non possiamo acquistarli tutti. Ma c'è spazio, potenza di fuoco necessaria per un altro colpo alla Ronaldo, alla De Ligt, alla... Che potrebbe essere Pogba. Ma torniamo ai ragionamenti di prima. Cioè, una squadra si costruisce con una determinata logica. Alcuni giocatori possono rientrare in quel tipo di ragionamento, però è altrettanto vero che molti di questi giocatori sono anche felici dove sono. Quindi da questo punto di vista uno rispetta questo tipo di prospettiva. La nostra ambizione è quella di continuare a crescere anno dopo anno. Felici fino a domani, perché domani giocano a Napoli e poi vediamo, no? Fino a domani sera. Fino a domani sera, poi dopo domani sera, poi se ne parlerà. Vediamo se sono ancora felici quello di domani sera. Che sensazioni ha sul Lione? Di grande rispetto, ma anche di grande consapevolezza dei nostri mezzi. La squadra come l'ha vista ultimamente? L'ho vista bene, l'ho vista serena, l'ho vista in crescita. Arrivano di nuovo, come diciamo all'inizio della trasmissione, arrivano gli appuntamenti per i quali si ritrovano dall'estate, la preparazione estiva, la prima fase di campionato, adesso queste partite, l'Inter domenica, gli ottavi di finale di Champions, sono le partite per le quali questi giocatori vogliono giocare. Le parole di Klopp, che ha detto la Juve è la favorita per la Champions, mai vista una rosa così forte, le hanno dato un po' fastidio perché ha fatto il furbo? Anche detto non capisco come possa non avere 10 punti sulla seconda. O sono motivo d'orgoglio? Io francamente mi interesso relativamente poco di queste dichiarazioni, perché sono i giochi delle parti. A me rileva quello che avviene all'interno del nostro spogliatoio, le dinamiche all'interno del nostro spogliatoio e la consapevolezza di quelli che sono i nostri obiettivi. Dopodiché un gioco delle parti tra addetti ai lavori, che trovo anche abbastanza affascinante perché fa divertire i tifosi. A proposito di fascino di queste grandi sfide, volevo chiederle, appunto, si è discusso tanto nei mesi scorsi della Super Champions, no? Lei ha anche chiarito che il tema si pone entro certi limiti, che non si pensava a una lega tra grandi club europei, però lei è uno dei pochi presidenti che non pensa tanto alla prossima stagione, o non pensa soltanto alla prossima stagione, ma pensa al calcio da qui ai prossimi 10 anni, al 2030, perché il calcio in questo momento, come lei ha ricordato, per esempio citando un grande avversario del calcio che è Fortnite, ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno di trovare nuove sfide, perché soprattutto per i giovani diventa sempre più complicato seguire le partite, insomma c'è bisogno di un rinnovamento, e tra questo c'era il tema della Super Champions. Ora il tema è anche legato alla crescita della Juventus, perché sostengo, insomma, da un po' di tempo che per un grande club come la Juventus o anche per l'Inter di Suning, restare troppo ancorati al recinto italiano rischia di creare una zavorra rispetto a quello che è il processo di crescita dei grandi club europei. In quest'ottica, che tipo di ragionamento insomma, state facendo nell'ECA e se tutte le polemiche che ci sono state contro appunto l'idea di una Super Champions insomma, le ha come dire, capite fino in fondo? No, ma io non sono d'accordo sul tema che l'Italia sia un limite per squadre come la Juventus e come l'Inter. Anzi, se uno fa un ragionamento al contrario e valuta quello che è stato un sano immobilismo dell'ultimo decennio rispetto alla crescita, soprattutto della Liga da un lato, anche la Premier, ma soprattutto la Liga e la Bundesliga, io trovo che invece dovessimo ricominciare ad avere un vero piano di crescita e sviluppo per il calcio italiano, il vero valore che si può liberare oggi a livello europeo risiede in Italia. Sì, mi riferivo a una serie invece statica, appunto, che non abbraccia questi processi di sviluppo. Sì, però voglio dire, le squadre che oggi sono in Italia sono quelle che hanno il maggior potenziale di crescita se si dovesse cambiare marcia, perché la Liga sta arrivando a un punto che ha saturato, ha sfruttato il Barcellona e Real Madrid fino a dove poteva, il modello tedesco ha dei limiti di distribuzione, la Francia vive sostanzialmente su un club, quindi laddove c'è grande passione, tanti tifosi, grande pubblico, grandi marchi che rappresentano la storia del calcio, questa è Italia. Quindi se si ricominciasse ad avere una strategia comune e adatta, c'è tantissimo valore che può essere estratto su quella parte di internazionale. Il nazionale credo che siamo sostanzialmente cappati, ma se uno guarda i diritti televisivi, la Spagna ha quasi 1 miliardo di internazionali, l'Inghilterra ha 1,8 miliardi all'anno di diritti internazionali, quindi si vede qual è il potenziale. Noi possiamo mettere tutte le settimane partite come Roma-Napoli, Milan-Inter, Juve-Milan, cioè ogni settimana noi abbiamo una partita che è esportabile globalmente, quindi c'è un valore enorme che possiamo raccogliere da un vero sviluppo italiano. La parte europea è una parte più delicata, perché il modello che è stato presentato l'anno scorso è stato giudicato per la parte più alta del meccanismo piramidale, quando invece questa vedeva un allargamento della base, maggior partecipazione di più paesi, un meccanismo da paralega europea. Ma è stato comunque un buon momento di confronto. A me ha permesso, voglio dire, di rafforzare in maniera determinante i rapporti con Seifert, con Tebas, nel senso con cui oggi mi sento quasi settimanalmente, ma per capire tutti assieme qual è il modello di calcio che vogliamo, non nell'interesse di un club o dell'altro. Se noi lasciamo i meccanismi di accesso, che poi era la parte più criticata, come sono oggi, per me è indifferente. Per il Real Madrid è indifferente, per il Bayern Monaco è indifferente. Cioè, quindi non è che ci sposta più di tanto cambiare il modello di accesso, tenere quello che abbiamo, va bene così com'è. Quello che però, per evitare che i bambini di oggi, non l'anno prossimo, ma tra 10-15 anni si disaffezionano dal calcio perché i papà non li portano più allo stadio, perché nei parchi non giocano più a pallone, perché stanno per hanno altre passioni, e capire che cosa attrae. E cosa attrae sono le grandi sfide. L'hai mancato Chiellini in questi mesi? Giorgio manca qualsiasi squadra, secondo me, se devo essere sincero. Giorgio è un vero leader in campo e fuori dal campo, quindi la sua assenza si è sentita, però abbiamo la fortuna oggi di avere una rosa che tecnicamente non lo fa rimpiangere con Bonucci, De Ligt, Demiral e Rugani. Presidente, le piace il VAR? Terza stagione, sì. Molte critiche, sì. Anche come viene utilizzato quest'anno? Sì, io ero favorevole prima, lo sono oggi, lo sarò domani. Meglio il VAR del primo anno o il VAR di oggi? Cioè quello... dopo che è cambiata, insomma, diciamo, è aumentata la discrezionalità. Allora, per me il tema è ridurre il più possibile il margine di errore di un servizio del calcio. Cioè, l'arbitro è un servizio, quindi quanto io più riduco il margine di errore del servizio che viene erogato dall'arbitro, quanto più è un successo, qualsiasi sia lo strumento che viene utilizzato. Le parole di Commisso dopo Juventus-Fiorentina le hanno dato particolarmente fastidio perché arrivavano da una persona appena arrivata in Italia, dagli Stati Uniti, con un'esperienza nel mondo della comunicazione, catalogate come normale dialettica? No, mi hanno fatto piacere perché hanno fatto capire a Sarri che cosa vuol dire essere Juventus e quindi con quale semplicità si può scatenare una violenza mediatica su di noi. Una battuta che ha fatto l'altro ieri è passata completamente inosservato. Se il rigore che è stato dato alla SPAL fosse stato dato a parti invertite e fosse stato il rigore del 2-1, si sarebbe aperto un caso superiore di quello che stiamo vivendo. Ma con Commisso vi siete sentiti dopo, nei giorni successivi? No, a me ha fatto piacere, a me quando qualcuno mi fa un favore, non ho bisogno di ringraziarlo. Abbiamo un'ultima domanda a WhatsApp di Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Buongiorno Presidente. Storicamente la Juventus è stata la prima fornitrice di giocatori della Nazionale Azzurra. Ricordo il blocco bianconero del Mondiale 82 e del Mondiale 2006. Attualmente sono soltanto due i titolari italiani della Juventus, Bonucci e Chiellini. A suo avviso, nell'immediato futuro, la strategia della società prevede di costruire un nuovo zoccolo duro italiano oppure la necessità di essere competitivi con le principali avversarie europee imporrà sempre di più questa internazionalizzazione della rosa? Siamo al vecchio tema, più giocatori italiani nelle squadre italiane. Voglio dire, mi viene da riesumare una battuta di mio padre. Che dice, se io potessi scegliere vorrei 11 giocatori di Torino, se non possono essere di Torino, che provengano dalla Svezia o da altre parti, cioè, non rileva. Quello che deve essere è un percorso di crescita della Juventus. È evidente che uno zoccolo di italiani per motivi culturali, motivo di giocatori della nazione in qualsiasi club, rafforza l'identità culturale del club stesso, e questo è indiscutibile, che se si guardi, voglio dire, Spagna, Germania, Olanda, cioè la gente del paese dà un'identità diversa, e un risultato negativo quando vanno in edicola, al supermercato, al bar, lo vivono in maniera diversa che uno straniero. Quindi è evidente che uno zoccolo duro di italiani sarebbe auspicabile. Può aiutare. Cos'è il derby col Toro per lei, visto che ha fatto questo riferimento a Torino? Il derby col Toro è una partita difficile, perché se la vinciamo è normale, se la perdiamo ce ne parlano per 6 mesi. Quindi È come il discorso di qui sopra, no? Quello degli arbitri. A proposito, tornando lì, si parla di evoluzione, quindi chiamata del discorso della chiamata di parte, facciamo così. Può essere allora, io quando ne parlo, spesso mi capita anche di parlarne quando sono in UEFA, su cui bisogna, queste sono domande che vanno fatte ai tecnici, non ai dirigenti in giacca e cravatta, perché sono loro che vivono il campo, quindi sono loro che devono dare le vere indicazioni di come si migliora ciò che avviene in campo. Poi noi possiamo avere la supponenza che stando nei palazzi di vetro capiamo meglio, ma sono loro che ci devono dare quell'input e quell'incipit. Se ce lo danno, si porta avanti un discorso. Però, se non ricordo male, lei si è espressa in maniera chiara, ad esempio, sull'idea che il VAR dovesse entrare nella Champions. Assolutamente sì, ma perché abbiamo una tecnologia che può migliorare, può ridurre il margine di errore, utilizziamola. Questo è evidente, non è che si trattava di individuare, c'è già. Bisogna solo applicarla. Leggiamo un messaggio di Valerio che ha scritto via WhatsApp. Fra 3 anni sono 100 anni che la famiglia Agnelli è proprietaria della Juve. Chiede lui sensazioni, aggiungo io, si immagina mai che un giorno potrebbe finire questo legame? No, è un motivo di orgoglio non mio, ma da parte di tutta la famiglia, evidentemente. Credo che abbiamo per fortuna ormai un rito, speriamo di portarlo avanti quanto più possibile. Quando vinciamo un trofeo lo portiamo al museo e cerchiamo, voglio dire, di creare una storia. Quando vincemmo il 5º titolo avemmo mia zia Maria Sole che accolse i ragazzi dei cinque scudetti e disse quanto tempo che vi aspetto, perché lei aveva visto anche la Juve del quinquennio, e quindi il mio auspicio è che le prossime generazioni possano ripetere un qualcosa del genere con noi un po' più vecchietti e farci questa sorpresa. Noi siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un minuto. Lascio una domanda a Marco Berinazzo, l'ultima. No, dove vede la Juve fra 5 anni, sempre in quell'ottica su cui non ti sto molto, insomma su quell'ottica europea, anche rispetto, diciamo, ad altre situazioni, quella del City, il Paris Saint Germain, insomma, che magari hanno avuto una crescita un po' come dire. No, sì, chiaro. Noi abbiamo la consapevolezza che il piano che abbiamo presentato agli investitori durante il roadshow dell'aumento di capitale sia la strada da proseguire. Sapevamo che questo sarebbe stato un anno di trasformazione, e quindi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, mantenere la competitività sul campo, incrementare i ricavi e rafforzare patrimonialmente la società, questo sarebbe stato un anno di trasformazione. Abbiamo la consapevolezza che quel piano lì è il piano giusto per mantenere la Juventus competitiva ad alto livello, a livello nazionale ed internazionale, e ho altresì la consapevolezza di avere una squadra fuori dal campo con Giorgio Ricci, con Marco Re, con Fabio Paratici, e in campo con la scelta di Sarri, che sono le persone che possono portare avanti il piano della Juventus nei prossimi anni. Bene, chiudiamo qui. Sei divertito? Io abbastanza, sì. Bene, allora come abbastanza? Come abbastanza? Perché ti ho finito, è finito troppo presto. Ma la seconda volta sarà meglio. Questo è il mio esordio radiofonico, esatto. Quindi non posso che ringraziarvi. Grazie a lei. Facciamo un disco adesso, allora. Grazie davvero. Grazie ovviamente a Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato, Giorgio De Luca, a Claudio Albanese, Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, Marco Bellinazzo. Ciao a tutti, tutti convocati. Domani non ci sarà più Andrea Agnelli, ma noi sì, torniamo. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.